la soluzione per certi versi più limitativa, che è quella di raccontare tutto dal punto di vista del protagonista e basta. Quindi la macchina da presa è sempre con lui, e quindi quando lui si rapporta a questa donna che lo chiama o che conversa con lui attraverso la porta, non abbiamo il diritto di vederla. Ecco, questa è stata una scelta di grande rigore, che da un lato mi ha negato la possibilità che avrei avuto in una narrazione oggettiva di avere degli elementi di suspense straordinari, no? Lui sta arrivando, la ragazza non è ancora pronta, le azioni parallele a cui il cinema ci ha aiutato, ci ha abituato tante volte. Dall'altro lato, a fronte di questa autolimitazione, il rimanere sempre dal punto di vista del personaggio mi avrebbe regalato, come mi ha regalato, un potenziale di mistero di cui il film ha bisogno. Sarebbe stata una storia un po' più banale se l'avessi raccontata in chiave oggettiva. Quindi stare sempre dal punto di vista del protagonista ci porta a vivere la storia partendo dalle premesse stesse del suo modo di vedere le cose e condividendo la sua trasformazione e le sue sconfitte, ma anche le sue vittorie, se vogliamo dirlo. Ecco, quindi questo rende lo spettatore più vicino al personaggio e quindi anche più disposto a condividerne i sentimenti negativi, ma anche positivi. Allora, ancora una domanda, questa volta rivolta agli altri protagonisti del film, perché descrive comunque personaggi di un certo calibro, con peculiarità direi eccezionali. Dal fine esperto d'arte, quale è proprio Virgilio, il nostro protagonista, al genio della matematica, o dal brillante giovanotto che riesce a ricostruire tutto e di più. Quindi è un film che da duale diventa corale alla fine? Ma corale non ci avrei mai pensato, perché in fondo è un film con pochi personaggi. I personaggi in fondo sono cinque, sì. Di cui quelli decisivi tre, se vogliamo. Capisco il concetto di coralità nella misura in cui questi cinque personaggi poi finiscono per avere una funzione essenziale nell'ingranaggio del film, e quindi sì, da questo punto di vista sì, la ragazza malforme che ha l'ossessione dei numeri e che sa calcolare tutto e che sa contare tutto e che sembra un elemento quasi coreografico, inutile, eccetera, alla fine poi si rivela essere invece senza dire troppo, l'elemento più importante. E così l'amico storico, e così l'amico appena conosciuto, e la ragazza, insomma tutto ha una funzione, come è nel noir tradizionale, dall'altra parte non si poteva fare altrimenti. Purtroppo il tempo in radio è tiranno e siamo quasi ormai verso la fine, però se potesse definire con un aggettivo, mi rendo conto che è difficilissimo, Jeffrey Rush, che cosa ci direbbe? Jeffrey Rush è un grande attore, ma anche un attore grande, perché non sono la stessa cosa. Ed è anche un attore coraggioso, di quelli che quando decidono di amare un personaggio lo amano fino in fondo, fino all'errore. C'è un attore generoso, non è un attore prezioso, si lascia andare, si concede. Qua ha amato molto il personaggio di Virgil, ha amato molto il film ed è stato veramente il più grande amico del film che io ho avuto durante tutte le riprese. Ed è un attore che, al di là di qualunque frase fatta e di qualunque frase di circostanza, è un attore con il quale mi piacerebbe rilavorare alla prima occasione, perché sa essere rigorosissimo ma non ossessivo, rigorosissimo ma leggero, attento, scrupoloso, preciso, responsabile ma scherzoso, gioioso, è proprio una persona rara. Siamo in chiusura. Brussellando è un programma di libri, di cultura e di letteratura, però brevemente, mi rendo conto anche qui che siamo veramente coi tempi ridotti al minimo. Cos'è per Giuseppe Tornatore l'arte del raccontare? La prima risposta che mi viene da dire è che non lo so, perché è troppo difficile e misterioso. L'arte del raccontare è il metodo di raccontare una storia non annoiando mai lo spettatore, qualunque sia la storia, non necessariamente ricorrendo sempre agli escamotage del genere cinematografico, in questo caso visto che faccio il cinema, che pure sono escamotage che io amo moltissimo, ma in qualunque tipo di racconto c'è un modo per raccontare in uno stile che può risultare costantemente interessante per lo spettatore, sia che si tratti di un giallo, sia che si tratti di fantascienza, sia che si tratti di filosofia. Ecco, il racconto, penso un po' all'arte del racconto orale, che un po' si è perduto. Ecco, forse bisognerebbe tornare a studiare, a imparare quello, l'arte del raccontare a voce. Spesso i giovani oggi non lo sanno fare e quando raccontano a parola si perdono. Ma raccontare è l'arte di coinvolgere l'ascoltatore, lo spettatore, senza annoiarlo mai, dandogli l'illusione di vivere veramente la storia che gli si sta raccontando. Maestro, noi la ringraziamo, le auguriamo veramente all the best per The Best Offer e la ringraziamo per essere stati qui con noi con Radio Alma e Brussellando. Grazie, grazie a tutti voi, auguri.